Ieri ha cambiato idea, dopo quanto? 2 settimane immagino di tormento? Non ho cambiato idea perché ho, diciamo, sospeso perché c'è stata una reazione grande dello Stato, una vicinanza, quindi è una forma di rispetto per tutti coloro che si sono impegnati per Monasterace, a cominciare dall'Arma dei Carabinieri, a finire alle forze di polizia, alla prefettura, alla regione, alla provincia e alla commissione, alle parlamentari calabresi che sono venute a trovarmi, ai sindaci, ai sindacati, è venuto il dottore Centrella di UGL, è venuto i responsabili della CGL, e quindi ai sindaci della Locride e di tutta la Calabria. Veramente ho ricevuto solidarietà da sindaci di tutta Italia. Per questo ha deciso sì, di sospendere decisione delle dimissioni. Perché ha detto sì, la prima... una forma Una forma di rispetto. La prima parola che le ho detto e che lei ha associato a sindaco è pesante. Perché? Ci spieghi che vuol dire fare il sindaco a Monasterace? Allora, fare il sindaco in uno di questi paesi della provincia di Reggio Calabria è difficilissimo per le condizioni economiche che ci sono, sia nei comuni e sia nei paesi. A Monasterace è drammatica il problema del lavoro. Avevamo una bella tradizione di donne lavoratrici nell'agricoltura, nelle serre florovivaistiche di Monasterace, e oggi sono senza stipendio da 2 anni, quindi nell'impossibilità per i giovani di trovare lavoro, e quindi nella partenza da parte dei giovani sia laureati che non laureati verso il nord si ha un indebolimento costante di quello che è la vita sociale ed economica del paese. Ed è lì che la criminalità organizzata va a insinuarsi. È chiaro, perché trova spazio. Lei che attentati ha subito, ce lo vuole raccontare? Lei è la farmacista, allora, tra l'altro, sì, del paese. Sì, io sono farmacista e ho avuto i primi 25 anni piuttosto difficili, e dopo nella prima amministrazione 3 macchine di 2 amministratori, di 2 assessori sono state bruciate, e quello è stato già un avvertimento molto molto pesante. Poi la rielezione è a meno di un mese dalla rielezione, e mi è stata completamente bruciata e devastata la farmacia. Tra l'altro noi abitiamo sopra, come in tutti i paesi piccoli, i paesi rurali, di solito il farmacista abita sopra la farmacia anche per una questione di comodità, perché noi siamo sottoposti, diciamo, ad un orario continuato. Quindi avete rischiato anche l'incolumità fisica? Sì, personale, sì, assolutamente. Da questo momento lei è sotto scorta, ci sono tre carabinieri che... Sono seguiti, fra l'altro, fra un attentato e l'altro, una serie di fatti molto molto inquietanti, anche rivolti ad alcuni assessori della mia giunta. E poi a fine marzo le pistolate, proprio i colpi di pistola verso la macchina e verso la serranda della farmacia. E qui deciso che non potessi io più fare il sindaco. È vero che suo figlio, adesso lei appunto, come detto, è sotto scorta. Lei è sotto scorta, sì. Guardata a vista 24 ore su 24 da 3 carabinieri. Sì. È vero che suo figlio le ha detto: mamma, non ci pensare più a tornare a fare il sindaco, per carità. Beh, tutta la famiglia. Nonostante ciò lei ha deciso per il momento di provarci, ecco, almeno. Ci proviamo, le ripeto, per un grande, grande rispetto che ho verso lo Stato e verso persone, sia che abbiano una carica pubblica, sia persone, semplici cittadini, che mi hanno dimostrato una solidarietà enorme e mi hanno chiesto di riprovarci. Lei in passato ha detto in una recente intervista: io in fondo che cosa facevo da sindaco? Pretendevo che la gente pagasse per esempio le bollette dell'acqua. Non solo quello, io non ho fatto niente di speciale, anzi abbiamo dei risultati per niente apprezzabili, anche perché io sono fortemente critica con il mio operato, quindi vede, nessuno sbandieramento di grandi successi. Non è un politico lei? No. non è un politico, è una persona, no, è una persona che si normale. È prestata alla comunità e dice, nonostante sia molto critica nei confronti della sua stessa giunta, di cui lei è capo, o di lei stessa, però anche solo far pagare le bollette dell'acqua, cercare di far rispettare cose semplici, questo può essere un qualcosa di rivoluzionario, qui, che dà fastidio. Qui ogni cosa, la cosa più normale possibile per me che... mi sento una persona normalissima, ogni cosa le dico, ogni piccolo passo è scavalcare una montagna. Lei sa, noi ci siamo occupati della sua vicenda la scorsa settimana, c'era il procuratore antimafia Gratteri che qui in onda le aveva fatto un appello a dire non lasci sindaco Lanzetta, perché se lei lascia perdiamo tutti, perdono le istituzioni, perde lo Stato, ci ripensi un attimo, le sono servite per riflettere queste parole? Certo, e infatti le motivazioni per cui ho accettato di rifare il sindaco è stato esclusivamente per grande, grandissimo rispetto verso lo Stato italiano, anche perché io mi sento parte di questo Stato italiano. Io sono nata in Calabria, ma per me è solo un caso, avrei potuto essere cittadina di qualsiasi posto d'Italia. So che ieri le hanno regalato una maglietta, ieri è venuto anche il segretario nazionale Bersani, non mi azzardo a leggerne la scritta se ce la vuole dire lei, perché farei una pessima figura. Significa che non sono più sola. No, beh, ma ce la dica se la ricorda. Nanucci in tano sacco non scrosci. E cioè? Significa che una noce da sola in un sacco intero non fa rumore, perché le noci, tante noci fanno rumore quando si muovono. Il significato vuol dire una noce da sola, e lei non si sente sola in questo momento, non si sente no, sola. Non mi sento sola, no. Ha paura? Certo che ho paura, perché... ma non per me, ho paura di farcela, perché io non sono abbassare mai la testa, e io ho paura di non farcela in questo senso, perché io sono sempre la stessa, tra il primo attentato e il secondo non ho cambiato una virgola del mio modo di fare. Teme che ci sia un po' spenti i riflettori su Monasterace, ci sia un po' l'abbandono anche da parte dell'opinione pubblica? No, perché una commissione antimafia che si muove per venire a Monasterace, un prefetto che viene a Monasterace, gli alti gradi dello Stato che vengono a Monasterace, sono tutte persone serissime, quindi assolutamente no. Un'ultima domanda, so che molti sindaci della Locride hanno annunciato che il 25 aprile listeranno a lutto, metteranno in lutto, insomma, non so se dove, se lo porteranno sul braccio, sulla bandiera di fronte al comune, sì. Lei lo farà? Io sarò a Marzabotto, però con tutti i colleghi sindaci della Locride siamo in grande sintonia, per cui se si dovesse decidere in questo senso sarà una decisione assolutamente condivisa e motivata, per cui farò quello che faranno i miei colleghi, non per spirito di adattamento, ma perché ogni decisione è presa quasi all'unanimità. E quindi è chiaro che stiamo vivendo un periodo estremamente difficile, veramente mi viene da ridere a dire un periodo estremamente difficile, da che sono in Calabria ogni giorno e ogni anno è estremamente difficile per motivazioni varie. E quindi non è che ci sia differenza tra 5 anni fa oppure oggi, quindi siamo abituati purtroppo a vivere in una estremamente difficile. E fra l'altro siamo tra coloro che abbiamo deciso di tornare in Calabria, e per cui siamo più consapevoli e più forti ad affrontare le difficoltà. Noi intanto le facciamo tanti in bocca al lupo. Grazie. Veramente seguiremo la sua vicenda non solo politica, e la ringrazio per essere stata con noi. Il sindaco di Monasterace, grazie, Reggio Calabria, Maria Carmela Lanzetta. Noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità e meteo, e poi torniamo a cose, se volete, più nazionali, non che queste non lo siano, perché è una vicenda locale che è davvero una vicenda che riguarda tutti noi, ma nazionali di interesse almeno da parte dei giornali, la Lega, l'espulsione di Rosi Mauro, e qualcuno ha fatto notare, ma insomma non è neanche indagata, non ha ricevuto neanche una carta, un avviso, uno straccio di avviso di garanzia. Che dovrebbero fare molti altri che siedono in Parlamento e che hanno accuse anche ben più pesanti sulle spalle, tanto che per molti era un capro espiatorio. 24 mattino. La vicenda della Lega, ieri l'espulsione di Rosi Mauro dal partito, Rosi Mauro che rimane per il momento vicepresidente del Senato, l'espulsione, questa forse più prevista e prevedibile, dell'ex tesoriere Belsito. E insomma, le tante riflessioni che si possono fare su questa vicenda oggi, e le facciamo con due ospiti che intanto saluto: il sindaco di Varese, leghista Attilio Fontana, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Saluto anche Deborah Serracchiani, europarlamentare del Partito Democratico, buongiorno Serracchiani. Buongiorno a voi. Allora, le tante considerazioni, la prima la voglio rivolgere ad Attilio Fontana. Avrà letto una serie di commenti che parlano e possono tutti tradursi in una domanda di questo tipo: avete bruciato la strega sul rogo? Cioè, una persona che di fatto non ha ricevuto ancora un avviso di garanzia. Non voglio fare la difesa di Rosi Mauro, si è difesa credo bene, male, non lo so, ieri in via Bellerio, però l'idea è, eccolo qua, il capro espiatorio, bruciamo la strega, anzi, come è definita in questi giorni, è stata definita la terrona, la badante, la nera, mamma Ebe, la virago, leggo dall'articolo di prima pagina di Norma Rangieri sul Manifesto, e via tutto, risolti i problemi. Fontana, è così? Ma è curioso questo paese, è curioso perché nel momento in cui si decide di aprire una stagione di grande trasparenza e di grande chiarezza, immediatamente tutti coloro che erano stati giustizialisti si trasferiscono nel campo dei garantisti. È curiosissimo, ma vabbè, ognuno evidentemente si assume la responsabilità di quello che dice. Io credo che non sia soltanto una questione di avviso di garanzia o non avviso di garanzia. Ci sono dei comportamenti all'interno di un partito che possono non costituire reato, ma che possono essere e devono essere valutati in un certo modo. Io credo che al di là dei comportamenti che emergono dagli aspetti giudiziari, dalle intercettazioni che sono state pubblicate, apro e chiudo una parentesi, io che sono garantista mi sono scandalizzato del fatto che siano comparse tante intercettazioni, ma fino a quel momento, dato che tutte erano relative a dei leghisti, gli odierni garantisti non hanno detto beh. Ma al di là di quello, dicevo, c'è il comportamento di una richiesta avanzata dal presidente del partito e dei tre segretari di dimettersi dalla carica di vicepresidente del Senato, al quale è stato dato una risposta negativa. Quindi quello è il motivo, cioè il comportamento, l'aver detto no alla richiesta di dimissioni da parte del Io partito. Non faccio parte del Consiglio federale, quindi non so quali siano state le motivazioni che hanno indotto il Consiglio federale a prendere questa decisione. Da esterno, da cittadino che vede le cose, mi sembra che ci sia stata una somma di comportamenti. Ma sì, guardi, sulla Padania la linea è questa, la Padania dice il Consiglio è stato obbligato ad espellere una leghista che non ha rispettato il volere del capo, che gli aveva detto di dimettersi e poi di non andare anche in TV, e quindi a malincuore sembra il Consiglio. Però Fontana, mi scusi, Maroni l'ha sentito anche lei che dal palco ha detto ci penseremo noi della... non si dimette, la Lega lo dimette alle dimissioni, e quindi mi sembra che a quel punto ci fossero già, aveva già detto di no alle dimissioni ed era già andata in televisione. Una bella prova muscolare, somigliava un po' a una purga, ecco, ripeto, è curiosissimo questo mondo italiano, perché fino all'altro giorno tutti dicevano, i partiti che cercano di mettere lo sporco sotto i tappeti, che non vogliono mai fare pulizia, che non vogliono mai essere trasparenti, se un partito diventa trasparente improvvisamente diventa criticato responsabile per questo, perché ha assunto degli atteggiamenti che lei stesso definisce, interessante, con un minimo di sarcasmo muscolare. I muscoli si sono sentiti, non avessimo fatto niente avrebbero detto tutti si cercano di tutelare la casta che si tutela, che non ha il coraggio di andare a colpire chi è responsabile, tutti uguali. Adesso invece c'è la critica. No, ma è interessante, ma guardi che infatti vorrei andare dall'onorevole Serracchiani proprio per questo, perché in realtà se si vuole ribaltare la discussione, ci sono, onorevole Serracchiani, nel suo partito anche esponenti che hanno detto, beh, insomma, dobbiamo prendere adesso lezioni morali dalla Lega. La Lega, quando adesso vede dei problemi di persone iscritte al proprio partito che sono finite nelle intercettazioni per presunte irregolarità, per indagini, ha fatto pulizia, sta facendo pulizia. In altri partiti, anche il suo, ci sono persone indagate che rimangono al loro posto. Beh, non direi. Prima di tutto non si tratta, e non voglio prendere una lezione morale dalla Lega Nord, mi pare proprio di no. Nel mio partito, a Commissione di Garanzia, di fronte alla posizione di Penati e di Lusi, non li ha tenuti al loro posto, ma ha fatto tutti i passi necessari di espulsione, di richiesta di fare un passo indietro da tutti gli incarichi istituzionali, e credo francamente che il segnale sia stato dato in modo chiaro. Penati è nel Partito Democratico, cioè non è stato espulso dal partito. Io, come altri, abbiamo espresso la richiesta, lo facciamo sempre, a prescindere dalla parte a cui fa riferimento un'eventuale azione giudiziaria, che quando i fatti incidono, ledono o toccano il ruolo istituzionale è sempre bene fare un passo indietro, dopodiché le scelte restano personali, come è stata personale quella di Rosy Mauro, che ha scelto di non dimettersi. Lei che ne pensa, credo, dall'esterno, no, di quello che è successo in Lega? L'hanno... Ah, scusi, la sentivo male, allora non capivo se mi stava ancora parlando. Sì, no, volevo sapere appunto che ne pensa di quello che è successo all'interno della Lega, da osservatrice esterna, ovviamente. Ma guardi, ho sentito anche il sindaco Fontana. In realtà credo francamente che, come dire, la Lega, non è strano il popolo italiano che indubbiamente a un certo punto cambia, o le forze politiche che passano dall'essere giustizialisti a garantisti o viceversa. In realtà la buona dose di isterismo e di simbolismo che è sempre stato proprio della Lega è apparsa anche in una vicenda come questa qui. Insomma, non sono le altre forze politiche che hanno costretto al simbolo delle scope piuttosto che della purga, piuttosto che della pulizia etnica, sono parole che ho sentito anche da altri, le scelte fatte dalla Lega Nord. A me pare evidente che si tratti più che altro di vicende interne al partito, dove c'è una conta interna pesante tra le persone vicine a Bossi e le persone vicine a Maroni. C'è un conto che viene saldato anche utilizzando evidentemente azioni giudiziarie, rispetto alle quali non spetta a me naturalmente fare valutazione, c'è una magistratura che arriverà fino in fondo. Quello che, così lo dico anche da donna, non ne farei però, rispetto poi alla singola posizione, quella della senatrice Mauro, non ne farei una questione di genere. Ecco, ha scelto la senatrice Mauro di avere un ruolo di un certo tipo in Lega e di avere una certa visibilità accanto al leader. Di conseguenza non credo che sia una questione di genere, credo che siano sempre questioni politiche, insomma, e quando non sono questioni politiche sono questioni legate alla conta interna. Se è il caso della Lega non sta a me dirlo, però insomma, da osservatore esterno rilevo che i simbolismi sono stati utilizzati anche in questo modo per far vedere che c'è una differenza legata all'essere leghista, che in realtà si è smontata in modo così brutale di fronte alle azioni giudiziarie. In ogni caso non ne vede appunto una battaglia di genere, non ne fa una difesa della donna in questo caso attaccata da un partito maschilista, no? No, francamente no, anche perché, ripeto, ci sono vari modi per le donne di fare politica. La scelta della senatrice Mauro di avere una visibilità accanto, sempre presente, accanto al segretario Bossi, probabilmente l'ha qualificata con certi nomignoli che francamente, come dire, sono la conseguenza anche del modo in cui evidentemente si fa politica. Sì, la badante forse è più diffuso. Se ne subiscono anche gli effetti evidentemente, no? Se si decide di far politica in quel modo lì, è chiaro che quando poi capita qualcosa, anche se di contenuto politico oppure giudiziario o non so cos'altro, probabilmente ci si attacca a quello, ma non ne farei una questione di genere in questo senso. Allora, andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi bisogna capire anche dal sindaco Fontana. Intanto, come molti ci chiedono, perché invece Bossi Junior non è stato espulso dal partito, e poi anche qualcosa sulla vicenda giudiziaria, perché il sindaco Fontana è anche avvocato, mi risulta anche avvocato della Lega, insomma sta seguendo questa vicenda dal punto di vista giudiziario. Tra poco. Le espulsioni all'interno della Lega, intanto 800 24 00 24, se volete intervenire. Sentirei Pierluigi da Milano che ci ha chiamato, buongiorno. Buongiorno signor Milan, mi sente? Benissimo. La ringrazio per avermi chiamato. No, senta, volevo lei. Dire, lei ha un sindaco leghista che si stupisce del nostro paese perché diventano tutti garantisti quando si fa trasparenza, ma io mi chiedo che trasparenza c'è stata nei confronti di questa espulsione, visto che nessuno sta spiegando perché è stata espulsa. No, guardi, però ecco, su questo il motivo, lo ribadisco, il motivo è questo, il motivo per cui è stata presa questa decisione, poi Pierluigi ognuno decide come vuole. È stato chiesto a Rosy Mauro da parte di Umberto Bossi, dunque il leader del partito e degli altri esponenti della Lega, dimettiti da vicepresidente del Senato. Lei ha detto no, non mi dimetto, e quindi il motivo dell'espulsione è come dire, ha disatteso una linea dettata dal partito e quindi non è più compatibile la sua presenza col partito. Questa è la spiegazione, Pierluigi. Chiedere la ragione della richiesta. La ragione della richiesta cosa vuol dire? Mi ha sentito cosa gli ho detto? Sì, ho sentito la ragione della richiesta per cui le è stato chiesto di dimettersi da vicepresidente del Senato. Beh, questo voglio dire, non so, Attilio Fontana, perché è stato chiesto a Rosy Mauro di dimettersi dalla vicepresidenza del Senato? Perché... Beh, mi sembra che se il signore avesse letto i giornali, l'avrebbe letto sui giornali, perché nel momento in cui un personaggio politico di quella caratura entra in una bufera di quel tipo, nel quale il suo nome viene ripetutamente richiamato per fatti che, al di là del fatto che siano oggettivamente possibili reati, sono sicuramente poco commendevoli, si ritiene, per una questione di trasparenza anche all'interno di un'istituzione, prima ancora di un partito, che si debba dimettere. Sì, vede, qui effettivamente c'è un po' il paradosso, no? No, mi lasci dire una cosa, a me è successa una situazione assolutamente analoga nello scorso mese di settembre, quando io ho assunto un atteggiamento che andava in contrasto con la linea del mio partito, e il mio partito mi disse: o fai un passo indietro o sei fuori dal partito. È vero. Io ho fatto il passo indietro, non sono stato messo. No, ma in questo partito. Volevo darle, se voglio Manforte, poi dopo, se no mi dicono che critico troppo la Lega. È paradossale adesso, Fontana, lei deve stare a giustificarsi del fatto che è uscita un'inchiesta e quindi il partito ha detto no, vogliamo fare pulizia, dimettiti, che è la richiesta che tutti i cittadini fanno quando ci sono le inchieste, e adesso lei deve stare a giustificare come mai il partito ha chiesto di fare un passo indietro a una persona che è citata in un'inchiesta. Funziona un po' a volte così questo paese. Sentirei Franco da Roma, buongiorno. Franco. Pronto? Franco, ci sente? Sì, la sento. Parla con me? Benissimo. Sto in provincia di Bari, se mi dici Roma capisco un'altra persona. Ah, no, infatti io chiamavo Franco da Roma, sono sia Franco della provincia di Bari. Franco, io sono Franco, provincia di Bari. Dica, Franco. Okay. Niente, io volevo soltanto dire che la Lega, prima di tutto, una premessa, no? Si è dimostrato un partito come gli altri, cioè fa le stesse cose, ha fatto le stesse cose degli altri partiti. E adesso con queste espulsioni si è voluta giusto dare una verginità. Cioè, in pratica le ha messo fuori due persone, diciamo, messo fuori, no? Che guarda caso sono meridionali, di cui una addirittura ha rinnegato le sue origini. Ah, cioè, manda via due persone meridionali, adesso ci siamo messi a posto con la coscienza. Questo dico, Ce l'hanno coi terroni. Poi invece non si dimette. Lui, diciamo, l'Umberto Bossi, anche lui ha firmato i bonifici a favore della moglie. Invece sta ancora là a dire no, tu non vai al Senato. No, è lui che va a casa, lui con il figlio. Invece no, mettiamo fuori due meridionali e ci siamo dati di nuovo la verginità. Non va bene. Loro sono esattamente come tutti gli altri partiti. Sentiamo, grazie, Franco da provincia di Bari. L'abbiamo recuperato invece Franco da Roma, che avevo annunciato. Franco, buongiorno. Eccoci, buongiorno. Ecco, dica. Volevo un attimino commentare le affermazioni della Cesa Chiani, che argomenta molto bene, però secondo me, come dire, la sua domanda l'ha elusa. Lei giustamente dice non voler prendere lezioni dalla Lega. È un fatto che la Lega ha espulso Rosy Mauro dal partito e il PD non ha espulso Penati. Penati è ancora lì. Detto questo, io che sono garantista, come dire, condivido la posizione del Partito Democratico, perché se si è veramente garantisti non si espelle qualcuno solo perché ci sono delle inchieste in corso. Però non si può affermare che il comportamento è stato lo stesso. Su questo, effettivamente, onorevole Serracchiani, lei ha detto le scelte poi sono personali, però cioè non le piacerebbe un partito democratico, il suo partito, che prendesse Penate e facesse una bella riunione a Roma e dicesse: adesso tu sei espulso dal partito perché per noi non sei più compatibile con la nostra linea? Guardi, non eravamo noi quelli che andavano in giro con i cappi in mano, no? Quindi evidentemente quando si va in giro con i cappi in mano, la conseguenza quando ti capita qualcosa tra capo e collo, evidentemente è quello del taglio della testa. Il Partito Democratico è un partito diverso. Prima di tutto mette in sicurezza le istituzioni e quindi la prima richiesta che è stata fatta a Penati e che è stata immediatamente accolta è stata quella di fare un passo indietro da tutti gli incarichi istituzionali anche importanti come quello di vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia. Penati era anche coordinatore politico della segreteria nazionale, non lo è più, non è più quindi nel Partito Democratico. Ovviamente si attendono poi i risultati dell'inchiesta. Beh, cioè non è più nel partito, cioè non ricopre più incarichi istituzionali per il partito. No, non ha più incarichi di alcun tipo. Però è ancora un iscritto. Istituzionali per il Partito Democratico. Beh, vuol dire anche quando è così che se chiede la tessera molto probabilmente con grande difficoltà la ottiene. Viceversa, di fronte a situazioni più chiare. Cioè mi sta dicendo che in questo momento è fuori dal partito, ma credo che ce l'abbia la tessera. No, ce l'ha la tessera, dovrà rinnovarla, non le sto dicendo. Ah, e lei non gliela incarichi di partito. Lei non gliela rinnoverebbe, cioè secondo lei non andrebbe rinnovata. Non aspetta a me deciderlo, guardi. Vabbè, ho molto rispetto di chi ha gli incarichi di partito. Però ci potrebbe essere questa possibilità. Io le ho dato una risposta mia tutta personale, parlo, ripeto, a titolo personale. Io già all'epoca dissi che forse era opportuno fare un passo indietro anche dall'incarico istituzionale inteso come consigliere regionale, ma ripeto che quelle sono delle scelte personali, delle quali poi il partito tiene conto, sia quando le si fa, sia quando non le si fanno, evidentemente. No, ma allora io Per quanto riguarda Lucy, per esempio, l'espulsione è stata chiara, netta e immediata, perché la vicenda era completamente diversa ed era una vicenda che... Questo è vero, Lucy è stato espulso dal Partito Democratico. Ho un minuto, Attilio Fontana. Renzo Bossi invece sta lì al suo posto. Sta lì al suo posto, si è dimesso da consigliere regionale, però sta nella Lega. Gli è stato chiesto di fare un passo indietro e lui l'ha fatto. Consigliere regionale, lui l'ha fatto. Quindi non va espulso. Se Mauro non l'avesse fatto, probabilmente anche lei continuerebbe ad essere all'interno della Lega. Io, per carità, sul garantismo del Partito Democratico, però mi permetto, onorevole Serracchiani, io non voglio fare lezioni a nessuno, si figuri tantomeno ai rappresentanti del PD, che si sa che abbiano un valore morale superiore a tutti gli altri, ma con Berlusconi non mi sembra che foste altrettanto garantisti, ma questo non c'entra niente. Ci riporta poi indietro nel passato. Vabbè, ma in Italia si dimentica sempre di tutto. Al signore Di Bari volevo proprio ricordare questo, che è l'unico partito nel quale il segretario del partito ha fatto un passo indietro e l'ha fatto per primo, il figlio del segretario del partito ha fatto un passo indietro e l'ha fatto per secondo. Il signore Di Bari mi dà il proprio Bossi ha fatto dire... un po' un passo di lato, cioè dietro, però ha detto però è presidente, lei capisce che c'è una differenza sostanziale tra questo sì, però non è che Bossi è dimenticato tutti i giorni, è lì in via Bellerio a dire sono la Lega. Ci mancherebbe, però mi sembra di poter dire che proprio dai due episodi che ha evidenziato il signore Di Bari si evidenzi, scusi la ripetizione, si evidenzi una differenza sostanziale. Però mi dica un flash, la terronaggine di Rosy Mauro dava fastidio un po', eh? Ma credo proprio di no, abbiamo sempre, vede che finché non è successo niente, Rosy Mauro, magari che non c'è mica solo lei di rappresentanti meridionali, l'onorevole Matteo Brigandì è ancora più meridionale fare un discorso. Vabbè, non dava fastidio, insomma, non dava fastidio. Vi ringrazio, devo dare la linea al giornale radio, ci sentiamo lunedì.